أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلكم قابوا أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلكم واخيط جروحي من نور الشمس نور الشمس نور الشمس شمس شمس شمسك يا وطني تشرق في بدني. Buongiorno Palestina. Come ogni mercoledì dalle 7 alle 7 e mezza pomeriggio, tardo pomeriggio, trasmettiamo sulla Palestina, ogni volta con un argomento specifico. La volta scorsa, mercoledì scorso, parlammo di alcune forme di opposizione non violenta che vengono sviluppate in Palestina. In particolare si è parlato del BDS. Ora ci sono giunte successivamente una serie di questioni, di domande, di richieste di chiarimento, per cui su questo argomento faremo un'altra trasmissione. Intanto, chi fosse interessato può cercare su BDS, BDS ricordo vuol dire boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, c'è un sito BDS che si può cercare su Google. Per quanto riguarda la trasmissione di stasera, abbiamo in studio stasera Marisa e Giampaolo. Giampaolo in particolare ha predisposto alcuni argomenti di cui ora ci parlerà. Allora, Giampaolo, di che cosa ci parli stasera? Allora, stasera vi parlerò della situazione degli arresti dei palestinesi da parte dell'esercito israeliano, e arresti che riguardano sia gli adulti ma anche i giovani, addirittura i bambini. In particolare vi parlerò come situazione emblematica quello che sta succedendo, che è successo in questi anni e sta succedendo tuttora nel villaggio di Nabisale. Giampaolo, senti, ma tu il paese di Nabisale l'hai visto quando sei andato a fare il viaggio in Palestina? Sì, quando sono stato in Palestina col viaggio organizzato da Assopace Palestina con Luisa Morgantini, ho visitato questo villaggio che si trova nella zona centro-occidentale della Cisgiordania, occupata militarmente dall'esercito israeliano, e che è a circa 20 chilometri a nord-ovest di Ramallah, già tanto per dare un'indicazione geografica. Senti, ma esiste un comitato popolare di resistenza non violenta in questo paese che è balzato alle cronache per queste manifestazioni del venerdì? Sì, esiste un comitato popolare di resistenza non violenta che si è costituito nel 2009. E a questo comitato partecipano diversi cittadini, giovani del villaggio, e la situazione appunto di Nabisale è abbastanza emblematica. Io nella mia visita ho parlato con esponenti sia giovani che anziani di questo comitato, e mi sono reso conto che in ogni famiglia c'è stato almeno un prigioniero politico, e lo si vede chiaramente dalle foto esposte in ogni abitazione. E ogni giovane sa che può finire in prigione senza alcuna motivazione. E nel villaggio c'è una forte tradizione di resistenza popolare non violenta fino dal 1948, quando ci fu una forte resistenza all'esercito israeliano. Perché questo villaggio, Nabissalè, è molto vicino a un insediamento israeliano, vero? Che sta facendo dei lavori di drenaggio e di sottrazione dell'acqua, se mi ricordo. Sì, Risulta? infatti uno dei principali obiettivi e motivazioni questo Comitato di Popolare di Resistenza Non Violenta è contro la confisca dei terreni da parte dei coloni israeliani di questo vicino insediamento e anche la confisca delle sorgenti di acqua del villaggio. E tanto per dare un'indicazione, gli abitanti del villaggio hanno l'acqua in casa per 12 ore alla settimana, mentre nella vicina colonia israeliana addirittura ci sono le piscine. E ogni venerdì, dopo la preghiera in moschea, manifestano contro questa confisca della terra e dell'acqua. Scusa Giampaolo, ma è il villaggio dove c'è Ahed Tamimi per caso? Sì, questo è il villaggio dove c'è Ahed Tamimi e se si considera che queste manifestazioni del venerdì dopo la preghiera in moschea vede la partecipazione anche di giovani, compresa Ahed Tamimi. L'esercito israeliano vieterebbe queste manifestazioni, sparano lacrimogeni, bombe assordanti e addirittura sparano un'acqua puzzolente nelle abitazioni, tanto che gli abitanti con la poca acqua si tengono il cattivo odore per settimane. Senti Giampaolo, una curiosità, un approfondimento, perché noi la conosciamo Tamimi, ma ecco, ci vuoi raccontare un po' la storia di questa ragazza? Sì, allora se si considera che in questo villaggio di Nabisale più di un terzo della popolazione è stata in tempi successivi arrestata. Lo stesso padre di Aed è stato arrestato addirittura per 10 volte. Aed è stata arrestata nel dicembre del 2017, quando aveva 16 anni, con un'irruzione notturna nella sua abitazione da parte dell'esercito israeliano. Hanno arrestato anche la madre Nariman e la cugina Nur, perché era stato pubblicato un video dell'alterco tra Ed e i soldati e due soldati durante una manifestazione a Nabisale, che era fatta contro la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Il Comitato Popolare aveva organizzato questa manifestazione e Ed si è trovata di fronte a casa sua questi soldati. E non solo, ma pochi giorni prima il suo cugino quindicenne, Mohamed, era stato colpito alla testa da un proiettile di gomma sparato da corta distanza. Era stato necessario un intervento chirurgico per rimuovere parte del cranio sinistro e un'ultima cosa grave, che le autorità israeliane hanno minacciato 20 membri della famiglia Tamimi di essere espulsi dal villaggio stesso. E senti, ma proprio a lei, se io ricordo, è stata inferta una condanna. In che termini, di che tempo, cosa ri ha rischiato? A gennaio del 2018 Ed e Nariman, la madre, sono stati sono stati portati a processo, accusati di aggressione aggravata e impedimento ai soldati di svolgere, il loro dovere. Aed doveva rispondere di 12 capi d'accusa per aver spintonato, schiaffeggiato i soldati, ma si tenga presente che alcune di queste sue azioni erano in difesa di suoi compagni che erano sotto arresto, che venivano strattonati dai militari, compreso il cugino di 9 anni. Ascolta, ma c'è stata una solidarietà internazionale sul caso di Head? Sì, ecco, siccome rischiava fino a 10 anni di carcere, di giudicata da un tribunale militare, perché si tenga presente che mentre i palestinesi, in quanto sono in zona occupata militarmente, sono giudicati da un tribunale militare, ovvero dove i giudici sono ufficiali dell'esercito israeliano, gli israeliani che commettono dei reati sono giudicati da un tribunale civile. Allora lei è stata condannata a 9 mesi di carcere perché ha patteggiato con un'ammenda di 2.500 euro. E mi chiedevi, la solidarietà internazionale, sì, è stata a partire dal maggio 2018 che fu dichiarata giornata internazionale di solidarietà per Aed e altri giovani palestinesi, e hanno risposto a questo appello associazioni, comitati, cittadini che hanno dagli Stati Uniti, dalla Francia, dal Sudafrica e anche dall'Italia. Anche Amnesty International aveva richiesto il suo rilascio fino dal gennaio 2018. E tu mi hai parlato di Ahed. Allora, io ricordo di un caso contrapposto, una sorta di contrappasso, cioè quello di Akobi. Questa Akobi è una ragazza israeliana che abita a Hebron, in un insediamento illegale, e la quale ha fatto la stessa cosa di Tamimi, ha schiaffeggiato un soldato. Perché ha schiaffeggiato questo soldato? Perché questo soldato le aveva impedito di tirare sassi sulla testa di bambini palestinesi. Lei l'ha schiaffeggiato. Per questo schiaffeggiamento Akobi non ha avuto nessuna condanna, eppure era stata già richiamata per atti di violenza analoghi in precedenza. Senti, io penso che al di là dell'interessante caso di Ahed Tamimi, sarebbe importante, ecco, poter capire meglio e conoscere qual è la condizione attuale dei prigionieri politici palestinesi che sono da anni incarcerati nelle punte carceri israeliane, sia minori che adulti. Ci dice qualcosa Gianpaolo su questo? Sì, la condizione dei prigionieri politici palestinesi è molto dura. Subiscono isolamento, subiscono torture. Già negli anni Ottanta ci sono state manifestazioni nelle carceri con scioperi della fame ed altre azioni non violente per ottenere condizioni di vita più umane. Addirittura mancavano perfino materassi e coperte nelle prigioni. Hanno ottenuto anche non solo una condizione quotidiana di vita meno disagiata, ma hanno anche ottenuto la possibilità di tenere nelle carceri corsi di alfabetizzazione, storia della Palestina, eccetera. Però la situazione resta comunque grave. Nelle carceri si praticano torture, ci sono trattamenti inumani e degradanti e scarsa assistenza medica. Allora, dal 1967 a oggi circa 200 prigionieri palestinesi sono morti nelle carceri a causa delle tali condizioni degradate. Israele ha stabilito un regime giuridico duale, come dicevo prima, una forma di apartheid giudiziaria. Gli israeliani giudicati da tribunali civili, i tribunali militari invece giudicano le azioni di resistenza dei palestinesi, che sono considerate come azioni terroristiche. Senti, ma dimmi, i familiari possono fare visita comunque ai prigionieri? Sì, allora va precisato che gli arrestati vengono portati nelle carceri che sono dislocate nel territorio israeliano, e la possibilità di avere visite da parte dei familiari dipende da permessi che vengono concessi raramente. Qualche volta addirittura la distanza dalla prigione al villaggio di origine è di non molti chilometri, ma il viaggio diventa estenuante con durata fino a 10 ore. Ma perché questo? Perché le strade di collegamento diretto tra villaggio e carcere sono vietate ai palestinesi, che devono fare dei lunghi giri e subire numerosi controlli con attese di ore ai vari checkpoint. Il colloquio poi, se riescono ad ottenerlo, dura massimo 50 minuti, però a volte capita che giunti al carcere ci sono dei motivi inspiegabili per il quale la visita non avviene e quindi si deve ricominciare da capo. Vi racconto una situazione assurda che si verifica a volte. È che un giovane che da anni non vede il padre arrestato, gli capita di rivedere il padre perché viene arrestato lui stesso e messo nella prigione insieme al padre. Senti, sempre su questo argomento, che è veramente interessante nel momento in cui andiamo ad approfondire le questioni. Vorrei, se tu potessi, che tu mi dicessi esattamente cosa si intende per questa detenzione amministrativa, che è il motivo giuridico per cui i prigionieri vengono fatti tali. Sì, allora i prigionieri tenuti nella cosiddetta detenzione amministrativa vengono imprigionati fino a 6 mesi, vengono condannati alla prigione per 6 mesi senza un'accusa specifica, in attesa che i servizi segreti trovino quale reato hanno commesso. Ma qualsiasi militare può effettuare l'arresto in questa detenzione amministrativa per i cosiddetti motivi di sicurezza. Se però trascorsi 6 mesi non si trovano i motivi per cui il carcerato è in detenzione, questa viene prorogata di altri 6 mesi e così via. Ci sono dei detenuti in detenzione amministrativa da diversi anni. E quando, non solo, ma quando vengono arrestati, viene fatta firmare loro una dichiarazione in ebraico, senza interprete, anche per chi non conosce la lingua ebraica, e quindi possono essere costretti a firmare autoaccuse. Quando si arriva al processo, i palestinesi vengono giudicati, come dicevo, dal tribunale militare, ma a volte si arriva ad andare avanti per anni senza che le prove siano trovate. E un'altra cosa, che il sistema giudiziario israeliano si finanzia mediante gli arresti, perché vengono fatti pagare dai palestinesi detenuti cauzioni per il rilascio o ammende nei patteggiamenti. E i numeri un po' in totale ce l'abbiamo? Ma detenuti? Sì, allora, secondo l'agenzia Adamer, che è un'agenzia palestinese, ma questi dati non differiscono molto dalle corrispondenti agenzie israeliane, i dati al maggio 2019, quindi a ieri, il numero totale di prigionieri politici sono 5.350, in detenzione amministrativa 480, i giovani detenuti 210, e di questi 26 sono sotto 16 anni. Ci sono poi 44 donne detenute. Ora, negli ultimi 50 anni, secondo l'Organizzazione per i diritti umani, dicevo prima Adamer, più di 800.000 palestinesi sono stati imprigionati da Israele. Questo significa il 40% della popolazione maschile ha visto il carcere. Oggi, facendo il totale delle cifre dette sopra, siamo a circa 6.500. E ci sono quasi tutte le famiglie palestinesi hanno subito la detenzione per vari motivi di uno o più dei suoi componenti: bambini, donne, parlamentari, attivisti, giornalisti. E l'obiettivo primario della politica di Israele è imporre punizioni più ampie possibile per seppellire le legittime aspirazioni di un'intera popolazione. Ma pensa che adesso Israele si spaccia per essere un paese normale, no? Con tutte le manifestazioni che vuole fare sul proprio territorio, ma ha 6.000, quasi 6.000, hai detto, prigionieri politici. Pensa che in Italia i prigionieri politici sono 54, va bene, su 60 milioni di abitanti, e lì sono 6.000 su 4 milioni di palestinesi. Ma un'altra cosa voglio dire a proposito dei sistemi di condanna, ho sentito che c'è un modo di condannare sulla base di informazioni segrete, cioè uno viene condannato sulla base di informazioni che non conosce, sulla base di informazioni segrete, e questo è sistematico nei processi che vengono fatti ai palestinesi. Prima c'è il processo, viene fatto in ebraico. Pensare una cosa, quando tu hai parlato di donne detenute, 44, ma chissà nel corso dei decenni quanto sono state. Ecco, sarà una problematica che vedo anche sotto un aspetto di genere, ma sulla detenzione delle donne forse c'è da dire qualcos'altro di interessante? Sì, allora vorrei precisare che mentre per Israele uno raggiunge la maggiore età a 18 anni, cioè un cittadino israeliano è maggiorenne quando supera i 18 anni, quando compie i 18 anni. Mentre lo stesso governo israeliano e i militari considerano per i palestinesi che la maggiore età si raggiunge a 16 anni. Questo significa che uno può essere arrestato anche già da 16 anni, viene considerato non un adulto, cioè viene già considerato un adulto quando ha 16 anni. Però ci sono anche arresti a 14 anni e a 14 anni vengono arrestati e ammanettati. E non è raro anche però l'arresto di più giovani, come è stato il caso del fratello di Aed Tamimi, che fu arrestato a 9 anni. Allora, i minori non sono sottoposti a torture, come dicevo prima, invece lo sono gli adulti. Però, ecco, quindi considerate che uno a 17 anni è considerato adulto e quindi può essere torturato. Però vengono tenuti in una situazione, diciamo, in cui diciamo, hanno celle piccole, stanno al freddo, sono sorvegliati da telecamere, non hanno il bagno. E le ragazze, ecco, arrivo anche alla tua domanda, sì, sì. Le ragazze non hanno, non, alle ragazze non vengono forniti gli assorbenti. E vengono anche fatti fotomontaggi per simulare rapporti sessuali e quindi vengono sottoposti poi a ricatti. E la stessa comunità palestinese quindi poi si trova in una situazione di difficoltà perché non sa se credere o meno a questi fotomontaggi e tende ad emarginare le ragazze quando escono di prigione e possono essere, avere anche difficoltà poi a trovare marito per queste accuse infamanti. Quindi doppia condanna per le donne. Sì, proprio doppia condanna. Sì. E allora vengono escluse le pene alternative anche per i minori, però vengono talvolta condannate agli arresti domiciliari. Questo significa che i giovani devono restare chiusi in casa senza salire sul tetto, sapete il tetto spesso è piatto, è tipo terrazza, non possono quindi salire su questa terrazza sul tetto, non possono affacciarsi alle finestre e non possono affacciarsi alle porte. E chi è che controlla che questo accada? Le madri. Quindi le madri diventano le carceriere dei loro figli. Aberrante. Assolutamente. Non solo, ma le incursioni notturne dei soldati israeliani per arrestare i genitori che hanno preso parte alle manifestazioni pacifiche vengono segnalati e durante la notte, alle 2 alle 3 di notte, c'è l'irruzione dei militari, vengono fatti uscire di casa tutti, adulti, bambini, lattanti, va bene, e questo vi potete immaginare quali grossi problemi psicologici crea ai ragazzi e soprattutto non a tutta la popolazione, ma ai ragazzi in particolare, e una situazione di continua insicurezza. Mancano presidi sanitari però che possano dare aiuti psicologici ai bambini. Addirittura spesso giocano fra di loro al carcere. I giovani temono di poter essere arrestati, i giovani e le giovani temono di poter essere arrestati in qualsiasi momento e spesso la notte dormono vestiti. E se c'è un minuto... Vai, un minuto ancora. Ecco, l'ONU ha documentato il mancato rispetto da parte di Israele del diritto internazionale sui minori, ma regolarmente le risoluzioni di condanna dell'ONU vengono ignorate da parte del governo israeliano. Allora, però, volevo fare un'ultima notazione. Quando noi ed altre organizzazioni cerchiamo di difendere i diritti del popolo palestinese e critichiamo la politica del governo israeliano, veniamo accusati di antisemitismo. Noi respingiamo con forza queste accuse, perché denunciamo le politiche di destra del governo israeliano e il mancato rispetto dei diritti del popolo palestinese. Noi siamo a fianco dei movimenti israeliani che appoggiano e collaborano con la resistenza non violenta del popolo palestinese. Anche in Italia facciamo azioni comuni con le organizzazioni ECO, che significa Ebrei contro l'occupazione. E, su questo argomento dell'antisemitismo, dell'antisionismo e dei movimenti anche all'interno del mondo ebraico che si battono contro le violenze di Israele, su questo dedicheremo una puntata a parte. Ma non solamente su questo argomento, ne hai citato uno che trovo che valga la pena di ritornarci, che è questo della violenza alle donne. Sulla violenza alle donne si tratta di vedere come la società israeliana tratta l'argomento. Beh, non anticipo nulla, ma su questo ne riparleremo presto. Vi accendiamo ora la solita un'informazione musica. Un'informazione: domani sera alle 18:15 al Circolo Arci di San Giusto Scandicci, via del Pontagreve 119, faremo un'iniziativa sulla Palestina con filmati, documenti e musica. Allora vi aspettiamo tutti, a domani sera e poi a mercoledì prossimo. من هالمجد من هالمجد من من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظليكم قابو عزي وبلادي قلبي وبوادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد كانوا